دسه في الوطن من اجل دمك اخي ارقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمه تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي يا اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي يا اخي لن تختفي يا اخي لا يتخلد اسمك في غزتي يا اخي صاحب العرق الغربي فلسطين اتبنتك وصل بسفن حرية مغطى برايت بعودتك مكون من جسد وتسوق طبقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب الا برجوع الارض ارض تناديكم خدر المعادي بشد على الايادي بالايادي بساعد مع حم الموت قد مضابط بالصوت عبو رافض السكوت وصاحب علم الصوت وناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف الضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامة بغفلة تمل قدر بلحظة خرجت ادموع بلحظة الشموع تتخطى الوداع هو الابقى السلام والحب رمز إيماني بالحق رمز إرادة الشعب أحكي في توريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر سيف توريو أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة أحكي في توريو إحنا إلنا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد أنت فلسطيني فيك أنت فلسطيني وأنا أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض E 19 e 32 minuti primi, sempre ai microfoni di Radio Default, sempre alla grandissima, ritorna alla grande trasmissione di aggiornamento e analisi dalla Palestina occupata, a Radio Cufia, e anche oggi stiamo in onda soltanto con il nostro GR, gli approfondimenti ricominceranno il giovedì 10 di ottobre. Ricordiamo i contatti della radio, www.radiodefault.it, il nostro contatto Facebook Radio Default e il contatto Skype radio.default. Con le presentazioni è tutto e passiamo alla sigla del nostro GR. E notizie di politica, i negoziati sono una copertura per attaccare Al-Aqsa. Mustafa Barghouti, parlamentare di Iniziativa Nazionale Palestinese, ha dichiarato che i negoziati in corso tra l'entità sionista e l'autorità palestinese hanno fornito una copertura per i recenti attacchi alla moschea di Al-Aqsa. Barghuti ha aggiunto che l'ANP dovrebbe smettere di puntare sui negoziati e di puntare invece sul proprio popolo, sull'unità nazionale e sui molti volti della resistenza. E passiamo ad Al-Quds, dove prosegue la giudaizzazione della città. L'Osservatorio Euromediterraneo per i diritti umani ha rivelato che il 33% delle case di Al-Quds sono minacciate di demolizione a causa della mancanza di autorizzazione. La città è sottoposta da anni a una politica di giudaizzazione che vede negare ai nativi palestinesi la possibilità di ampliare o costruire le proprie abitazioni, mentre viene lasciata mano libera ai coloni illegali di costruire i propri insediamenti. L'osservatorio ha aggiunto anche che la percentuale di povertà tra i palestinesi di Gerusalemme è salita al 64%, con il tasso di disoccupazione che ha superato il 40%. E passiamo alla West Bank, dove è stato riscontrato un boom di femminicidi. Secondo i dati del Centro delle Donne per l'Aiuto Legale e la Consulenza, nel solo 2013 25 donne sono state uccise per dei delitti di cosiddetto onore, un dato in aumento rispetto alle 4 del 2011 e alle 13 del 2012. All'origine di questa escalation c'è anche una legislazione troppo permissiva nei confronti degli uomini, che in alcuni casi possono anche ottenere l'annullamento della pena. Hassan Aluri, consulente legale del presidente Abbas, ha dichiarato che l'autorità palestinese non ha intenzione di emendare la legge, dichiarando che se dovessimo cambiare anche solo un principio del codice islamico, la gente ci si ribellerebbe contro e ci taccerebbe di essere non credenti. E passiamo ad Al-Khalil, dove è stato ucciso un soldato occupante. Domenica 22, un soldato sionista è stato ucciso da un cecchino mentre scortava i coloni illegali accorsi nella città palestinese per festeggiare le vacanze ebraiche. All'abbattimento dell'occupante, rivendicato da due gruppi della resistenza, le Brigate Al-Aqsa Unità Speciali e le Brigate Ahrar al-Jalil, è seguita la chiusura della città da parte delle forze di occupazione e la detenzione in massa di numerosi uomini palestinesi. Il giorno prima un altro soldato occupante era stato ucciso nella città di Qalqilia da un uomo che voleva scambiare il corpo del soldato con il proprio fratello detenuto nelle carceri dell'occupazione dal 2003. E Amnesty International si esprime contro gli abusi dell'ANP. Lunedì 23 settembre Amnesty International ha dichiarato che l'autorità palestinese deve smettere di reprimere le manifestazioni di dissenso. Philip Luther, direttore per il Medio Oriente e il Nord Africa della famosa ONG, ha dichiarato che il governo di Abbas ha seriamente minato la libertà di espressione e di assemblea, citando numerosi casi in cui la polizia e le forze di sicurezza hanno perpetuato impunemente delle cariche contro i manifestanti pacifici. E l'occupazione sfrutta economicamente la Valle del Giordano. Saeb Berekat, il capo negoziatore palestinese, ha dichiarato che le recenti demolizioni dei villaggi palestinesi nella Valle del Giordano sono dovute al controllo delle risorse di quella che è la zona più fertile della West Bank. Secondo i dati del funzionario, l'occupazione controlla l'84% del territorio e l'82% delle risorse idriche a vantaggio dei coloni illegali, per un introito di circa 600 milioni di dollari all'anno. E passiamo alla striscia di Gaza, dove la resistenza risponde a un'invasione militare. lunedì 24 numerosi mezzi militari sionisti e un bulldozer hanno invaso le campagne dell'area centrale della striscia di Gaza, scontrandosi con la resistenza. Durante la sparatoria i combattenti sono riusciti a incendiare il bulldozer, costringendo gli invasori alla ritirata. L'esercito sionista conduce spesso delle operazioni simili per distruggere i terreni agricoli posti al confine, la zona più fertile di tutta la striscia. Anche per oggi è concluso il nostro GR settimanale, sono le 19:40 minuti primi, noi vi diamo appuntamento non per giovedì prossimo ma fra due giovedì con i nostri consueti approfondimenti. Parleremo dei nefandi accordi di Oslo che quest'anno compiono 20 anni e noi vi lasciamo appunto i contatti della radio che sono www.radiodefault.it e ricordando sempre che questa trasmissione è gestita da l'Assemblea di Solidarietà col Popolo Palestinese dei Castelli Romani che ha un simpatico blog castelliperlapalestina.noblogs.org in cui potete trovare gli archivi delle nostre iniziative, articoli di approfondimento e di traduzioni, il nostro dossier sui rapporti economici italo-israeliani, nonché le registrazioni delle nostre trasmissioni precedenti. Per oggi appunto è tutto, noi vi salutiamo, vi auguriamo a tutte e a tutti buona libertà ai Castelli Romani come in Palestina.